in primo piano. Giovedì 28 ottobre le aperture sono diversificate, debutta il patto sociale, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, siglato l'accordo sul nuovo apprendistato, un sì anche dalla CGIL. La scelta di Repubblica e Corriere è sulle stragi, il pentito spatuzza con le nuove rivelazioni, stragi, il pentito riconosce 1007 per il Corriere e 1007 nell'agguata Borsellino per Repubblica. C'è chi sceglie la politica, altri, il Fatto Quotidiano torna, Berlusconi, la minorenne, il giallo dei 30.000 euro, e di questo ci occuperemo abbondantemente nella rassegna stampa, perché la vicenda davvero sembra deflagrare e almeno da come i giornali se ne occupano. Io però, con il solito paio di segnalazioni, vorrei iniziare da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, pagina 23. Ha messo insieme, o meglio, ha recensito un volume di 452 pagine del Mulino, Le Regioni, di Domenico Falcon, che mette insieme tutte le ordinanze più stravaganti degli ultimi anni. Sapete che i sindaci ogni tanto ci mettono del loro, e allora minigonne e nani da giardino, l'Italia dei divieti pazzi. Comuni Stato proibiscono il lancio del riso, la ricerca di lumache. Insomma, l'ultimo è stato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, che ha conquistato i giornali di mezzo mondo con la famosa ordinanza, o meglio, il nuovo regolamento di polizia definito anti-minigonne. In realtà, ricorda Gian Antonio Stella, Luigi Bobbio in una spettacolare intervista al Corriere del Mezzogiorno ha spiegato che i vigili urbani non useranno il metro, l'unica a essere sanzionata sarà la cosiddetta minigonna inguinale, con la biancheria intima a vista. Per capirci, basta uno sguardo per giudicare se la minigonna è mutandale. Mutandale, così l'ha definita. Un passaggio irresistibile per Gian Antonio Stella. Ma ce ne sono tanti. In questo volume, a Mariano Comense, per esempio, per erigere una barriera contro l'arrivo eventuale di Rom, il sindaco stabilì il divieto di sosta sul territorio comunale a qualsiasi tentativo di insediamento a mezzo di camper, roulotte, furgoni, autoveicoli in genere o tende e attrezzature da campeggio. Oppure ad Albenga, contro i nuovi kebab, le ordinanze contro il burka si sprecano, così come quelle anti-mendicanti. Qualche giorno fa avevamo il sindaco di Trieste, no? L'ordinanza contro i suonatori abusivi e anche contro i mendicanti che mostrano delle orrende piaghe e deturpazioni del corpo. Oppure a Trivolzio c'è l'ordinanza per rendere obbligatorio di imporre il crocifisso anche in bar, caffè o trattorie, e il sindaco dice era l'unico modo di imporre a tutti i nostri valori. O a Martinsicuro, Teramo, disturbo della quiete negli spazi condominiali, un'ordinanza contro questo disturbo per far cessare gli abusi vocali di clienti e lucciole che consumano sesso negli appartamenti a luci rosse. E così via. Insomma, in questo profluvio di ordinanze, Gian Antonio Stella dice i comuni, Stato, ormai sono alla deriva da questo punto di vista. La seconda segnalazione. Userò la parola schifo, che ormai è diventata la vicenda di Avetrana per alcuni versi. A pagina 25 del Corriere della Sera si registra anche questo: in vendita le foto del garage in cui è stata uccisa Sara. La denuncia è stata fatta dal TG2 con un operatore che si è finto parte di una trattativa e ha ripreso quella che era la proposta di comprare alcune delle foto scattate nel garage dove è stata uccisa Sara. Col dialogo, devo dire al direttore di fare uno sforzo per arrivare a una cifra. E quant'è questa cifra? Beh, 8.000, meno non si può. Questo ingegnere dice poi vorrei un incarico in Rai, che per me, capitemi, questa cosa vale anche per il futuro. Insomma, il TG2 ha ripreso tutto, ha mandato in onda e poi ha consegnato la cassetta alla procura, e l'ingegnere consulente di Vito Russo, cioè l'avvocato di Sabrina Misseri, si è visto piombare a casa in piena notte i carabinieri del comando provinciale di Taranto per una perquisizione. Col procuratore Sebastio, che ha detto fino alle 3 di notte abbiamo cercato di fare chiarezza su questo assurdo mercato delle foto. Tra l'altro, che sono le stesse foto che Matrix di Canale 5 ha mandato in onda in esclusiva con ora il conduttore Alessio Vinci che si difende così. Sia chiaro, non abbiamo sborsato un solo euro per quelle foto e quando sono andate in onda non potevamo sapere che fossero proprio quelle del servizio del TG2, perché mentre Matrix le mostrava, la troupe del TG2 era in procura a denunciare questo tentativo di vendere queste foto dell'orrore. C'è anche questo in Avetrana. E allora ci fermiamo pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalle notizie politiche, ma non solo, appunto, questa vicenda che si profila come, qualcuno lo dice, un nuovo scandalo, sexy scandalo possibile per il Presidente del Consiglio. La politica ancora si interroga sul nodo giustizia lodo Alfano, come racconta Donatella Astasio sul Sole 24 Ore a pagina 23. FLI, cioè Future Libertà, sia lodo solo se non è reiterabile. Insomma, che ci sia un po' un impazzimento della politica, Donatella Astasio lo fa notare anche ieri quando il capogruppo alla Camera del PDL Cicchitto prima ha detto: l'accordo è stato trovato, consolidamento della maggioranza, superamento del rischio di una crisi sulla giustizia, questo coi Finiani. Un'ora dopo lo stesso Cicchitto è stato costretto a dire che l'accordo non c'è ancora, il suo era solo un auspicio. Insomma, il tema è sempre quello, la reiterabilità del lodo Alfano. Oggi ancora si discuterà, forse i Finiani scioglieranno i dubbi e ci sono gli emendamenti da presentare, si vedrà insomma se la politica troverà un compromesso su questo importante tema di giustizia. Mentre c'è da dire che Berlusconi, dopo qualche giorno effettivamente un po' remissivo, costretto anche da un'influenza, fanno sapere i giornali a letto, ora riappare e il Corriere della Sera fa sapere, riparte oggi dall'emergenza rifiuti, perché Berlusconi tornerà ad Acerra, poi andrà a Bruxelles. Eccolo qui, le due zampate del leone, le definisce Paolo Bonaiuti, visto che è tornato. Stamattina il Premier, prima di andare a Bruxelles al Consiglio europeo incentrato sui temi di crisi e ripresa possibile, sarà ad Acerra per fronteggiare il tema rifiuti. Un Berlusconi che, fa sapere Paola Di Caro sul Corriere, ieri si è sfogato: Fini non mi fa fare la riforma della giustizia, vuol solo farmi fuori politicamente, non gli interessa altro. Si sente forte, tanto con lui i magistrati usano ben altre armi che con me. Non si è saputo nemmeno che su Monte Carlo era indagato. Questo nel retroscena del racconto di Paola Di Caro, avrebbe detto ieri Berlusconi, che vorrebbe partire dalle cose concrete, appunto i rifiuti, perché è questo quello che conta, le cose concrete. E oggi dunque Berlusconi riparte da qui. Che ci sia, ripeto, un problema politico lo certificano un po' tutti i giornali. Lo stesso Libero, guardate come titola Libero in prima pagina, mette la foto di Berlusconi un po' assopito, meglio raccolto nel volto, il volto nella sua mano, e adesso svegliati, come sai fare tu, tra l'altro parafrasando una celebre canzone di chi era? Di Cocciante, credo. E adesso svegliati a Berlusconi, insomma, con Maurizio Belpietro che scrive un editoriale in prima pagina. L'avevamo già detto, abbiamo ora a ribadirlo. Berlusconi deve reagire, deve recuperare gli scontenti, motivarli, individuare una via d'uscita. Silvio, sveglia, devi tornare a fare il leader. Così Maurizio Belpietro. D'altronde, Libero, sulla stessa pagina, a pagina 3, mette l'elenco dei 25 senatori del PDL tentate di passare confini. Si parte dalla A di Laura Allegrini, poi Paolo Amato, Andrea Augello, fino alla T di Oreste Tofani. Insomma, 25 senatori che Libero si chiede, con Barbara Romano, sono pronti per caso a passare ai Finiani? Tanto che a pagina 2, sempre Libero, scrive: il depresso Premier riparte da Napoli, perché oggi sarà ad Acerra. Insomma, che ci sia un termometro della politica molto surriscaldato lo testimonia anche Libero. Vediamo anche il Corriere della Sera, pagina 8, malcontento, voglia di fuga, PDL a rischio in Parlamento. C'è anche un'intervista molto esplicita al senatore Pier Giorgio Massid, definito vicino a Pisanu, che dice: amo il Cavaliere ma mi dà in pasto a quattro camerieri, ne ho le scatole piene dei Berluscones, sono tra i fondatori del PDL, il Premier ce l'ho nel cuore ma non vuol dire che può darmi in pasto ai camerieri. E chi sarebbero? Sono stato trattato a pesci in faccia da quattro cialtronetti, Ci dimentichiamo che la Santanchè era contro di noi? E Storace buttava merda su Berlusconi e è diventato il suo gladiatore. E poi Verdini, sono amico suo, ma politicamente me l'ha messa in quel posto. Voglio sapere se stiamo regalando il partito a Verdini e la Russa. E poi torna Scajola? Io rido. Spero che mi presenti quello spiritoso che gli ha pagato la casa. Insomma, il senatore Massidda parla abbastanza chiaro, infatti alla domanda lei andrà con Fini, tutto può essere. Beh, insomma, se non è una dichiarazione, come dire, di rottura questa intervista del senatore Massidda, poco ci manca. Visto che ha citato Scajola, il giornale fa questa provocazione, che poi tanto provocazione non è, a pagina 4. Se vale il metodo Gianfranco, visto che il giornale dice Fini è stato insomma, è stata richiesta l'archiviazione per la casa Monte Carlo in 448 e poi era indagato e nessuno l'ha saputo. Se vale il metodo Gianfranco, Scajola può tornare ministro. Gabriele Villa, pagina 4, Claudio Scajola si accomodi, prego, può riprendersi la sua poltrona. D'altronde, se lui si è trovato in un polverone mediatico, non è stato neppure indagato, mentre Fini è indagato per truffa aggravata a proposito della famosa sciocchezzuola dell'appartamento a Monte Carlo, sono mesi che è indagato e nessuno lo sapeva, e allora, dice il giornale, a maggior ragione deve riavere il suo posto l'ex titolare dello sviluppo economico, visto che non è neppure inquisito. Ma io voglio andare, come anticipato, a quello che l'Unità definisce esplicitamente a pagina 6 e 7, l'ultimo incubo di Silvio Berlusconi, che il Riformista definisce a pagina 5 Sexgate o grande bufala, ma che su tutti i giornali, ormai dopo l'anticipazione di due giorni fa pubblicata solo dal Fatto Quotidiano, che oggi ovviamente ci ritorna mettendo la prima pagina, e oggi però è davvero su tutti i giornali, paginate e paginate. Repubblica addirittura sembra volersi appropriare, e il segnale è chiaro, con la firma di Giuseppe D'Avanzo in prima pagina e l'inchiesta che parte presumibilmente oggi, e vedrete, iniziò così anche la vicenda Noemi, poi dopo ci saranno paginate e paginate. Pagina 1, 2 e 3, Repubblica, Ruby e il Cavaliere, le mie notti ad Arcore. Ecco, già nel titolo si fa capire il tenore del pezzo. Piero Colaprico e Giuseppe D'Avanzo raccontano la vicenda, ripeto, tutta da chiarire, ma che sui giornali poco a poco ormai sta conquistando pagina. La questura di Milano, stanzone del fotosegnalamento, c'è solo Ruby, marocchina. È il 27 maggio di quest'anno, è passata la mezzanotte, i poliziotti hanno già fatto una prova con la luce. Perché bisogna identificarla, è minorenne e se non ha una casa dovrà essere mandata in comunità. All'improvviso il silenzio dello stanzone si rompe, arriva trafelata una funzionaria che dice chiudete tutto e mandatela via, ordine categorico, al che tutti dicono ma come, gli agenti chiedono alla funzionaria e lei scuote il capo, dice di sopra, dove ci sono gli uffici del questore, c'è il macello. Pietro Ostuni, che è il capo di gabinetto, ha già chiamato un paio di volte. È la presidenza del Consiglio da Roma. Dicono di lasciare andare subito la ragazza, pare che sia la nipote di Mubarak. Non ci vogliono fotografie né relazioni di servizio. Al che chiedono chi è Mubarak, il presidente egiziano, dice la funzionaria. Ecco qui, scrive D'Avanzo con Colaprico, l'ultima affare o scandalo che investe Berlusconi nasce tra il primo piano e il piano terra di via Fatebene Fratelli 11, questura di Milano, in una notte di fine maggio. Ha come protagonista una minorenne senza documenti accusata di furto e il canovaccio ha una stravaganza. La ragazza viene liberata per l'energica pressione di Palazzo Chigi che sostiene sia la nipote di Mubarak. Perché la presidenza del Consiglio che c'entra con una, tra virgolette, ladra? E perché qualcuno a nome del governo mente sulla sua identità? Qui scrivono, entra in campo anche Nicole Minetti, che ha avuto il suo momento di notorietà quando da igienista dentale di Berlusconi è stata candidata con successo al Consiglio regionale della Lombardia. È colei che, secondo Repubblica, si precipita in questura, chiede di portare via lei la ragazza. Una volta in strada, scrive D'Avanzo, chiama Silvio Berlusconi. Ora che è finita l'emergenza, ride alle carinerie del Premier, passa il telefono direttamente a Ruby. Silvio mi dice così: non sei egiziana, non sei maggiorenne, ma io ti voglio bene lo stesso. Da allora non l'ho più visto, ma in questo mese ci siamo sentiti ancora per telefono. E poi i resoconti di tre incontri presunti di questa ragazza ad Arcore da alcune feste. E attenzione, perché c'è un termine che sicuramente diventerà, lo prevedo, il tormentone di questa nuova vicenda, che è questo: il Bunga Bunga. Ruby racconta delle sue tre visite con molte escort. La minorenne fa entrare negli atti giudiziari l'espressione inedita: il Bunga Bunga. Viene chiamata in questo modo l'abitudine del padrone di casa di invitare alcune ospiti, le più disponibili, a un dopo cena erotico. Silvio mi disse che quella formula, Bunga Bunga, l'aveva copiata da Gheddafi. È un rito del suo harem africano. Ed eccolo qui poi a pagina 3, io leggo da Repubblica, ecco il famoso Bunga Bunga descritto da Ruby agli esterrefatti pubblici ministeri milanesi con molta vivezza, addirittura con troppa concreta vivezza. Si diffonde nelle modalità del sexy e maschilista cerimoniale raccontato da Gheddafi e importato tra le risate ad Arcore. Tra l'altro Repubblica mette proprio il precedente di Noemi, quando le chiesero qual è la barzelletta preferita che le racconta il premier. Noemi disse: eccola qua, due ministri del governo Prodi vanno in Africa su un'isola deserta, vengono catturati da una tribù di indigeni. Il capo tribù dice al primo ostaggio: vuoi morire o Bunga Bunga? E il ministro sceglie Bunga Bunga e viene violentato. E il secondo non indugia: voglio morire. E il capo tribù: va bene, prima Bunga Bunga, poi morire. Quante risate si facevano, secondo Repubblica. Ovviamente il fatto ci torna. Libero dice: baby escort a Silvio, più che violenza un pare un tentato ricatto, con Gianluigi Nuzzi. Il Corriere invece si concentra con Ferrarella e Guastella su quello che è poi il nucleo della vicenda e che per ora vede indagati come ipotesi favoreggiamento alla prostituzione nell'entourage del Presidente del Consiglio. Sono indagati Lele Mora e Emilio Fede. Questo è il nocciolo della questione. Poi tutto il resto ovviamente è tutto ciò che racconta questa ragazza e che va ovviamente confermato. Ruby, una vita in fuga da tutto, salvata dall'amica Minetti. Minetti, appunto, l'igienista dentale, la consigliera regionale in Lombardia. Questa sul Corriere della Sera, con gli avvocati di Berlusconi, Ghedini in primo piano, che smentisce seccamente: non c'entra assolutamente nulla Silvio Berlusconi in questa vicenda. La frase di Ghedini, che dice: smentisco categoricamente il coinvolgimento di Silvio Berlusconi in questa vicenda. Insomma, ce ne saranno per qualcuno con gioia, per altri con rischio di un nuovo tormentone, nuove paginate nei prossimi giorni. Il traffico. Sulla crescita prima intesa in quattro punti, queste sono le strategie per il rilancio che il Sole 24 Ore mette a pagina 3. Ieri c'è stata, racconta Giorgio Pogliotti, la prima intesa al tavolo sulla crescita tra le parti sociali, che hanno elaborato le proposte comuni sui quattro temi, vale a dire gli ammortizzatori sociali, il mezzogiorno, la semplificazione amministrativa, la ricerca e innovazione. La soddisfazione del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, soddisfazione anche per il fatto che anche la CGIL abbia firmato, insomma, il primo confronto tra i partiti sociali, che ora si rivedranno tra 15 giorni, anche se il 2 novembre già ci sarà un tavolo tecnico. Ovviamente il tema dell'economia fa ancora discutere l'intervista di Marchionne da Fabio Fazio, tanto che sulla prima pagina del Manifesto c'è una lettera da Mirafiori che viene pubblicata all'attenzione di Fabio Fazio. Siamo lavoratori di Mirafiori, abbiamo visto l'intervista all'amministratore delegato Sergio Marchionne nella puntata del 25 ottobre, in cui esprimeva il suo punto di vista. Pensiamo sia importante però dare la possibilità a uno di noi di esprimere il nostro punto di vista, raccontare la vita di operai, il nostro lavoro, che è fondamentale per generare ricchezza per il paese. Vorremmo raccontare il ciclo produttivo, come le auto si costruiscono nelle linee di montaggio. Insomma, per queste ragioni chiediamo di invitare in trasmissione un nostro rappresentante. Seguono oltre 600 firme, insomma una lettera, chissà, Fabio Fazio se accoglierà l'invito, a che tempo che fa. D'altronde, se in politica il termometro segna temperatura alta, non è che in Rai vada meglio. Sentite l'attacco che tutti i giornali mettono in pagina di Bersani e Casini contro il direttore generale della Rai, Mauro Masi. Masi se ne vada, scontro alla Rai. È il vulnus, sono delle nuove nomine che il Consiglio d'amministrazione voleva fare, con Mauro Masi in primo piano. Ovviamente il presidente della Rai, Galimberti, ha detto: se si fanno queste nomine, e tra queste c'è anche Susanna Petruni, che dovrebbe passare alla direzione di Rai 2, se si fanno queste nomine io mi dimetto, al che il CDA è saltato e ora l'attacco della politica. Tra l'altro, io vi annuncio che alle 8:20 avremo nostro ospite nell'intervista Milena Gabanelli, la conduttrice di Report, per parlare della situazione anche ovviamente in Rai. Per quel che riguarda la cronaca e l'apertura di molti giornali, quella delle nuove rivelazioni di Spatuzza, il pentito Spatuzza è l'assassino di Don Puglisi, l'assassino, questo perché venga sempre ricordato, l'assassino anche avendolo sciolto nell'acido del figlio del pentito Di Matteo, poi si è pentito per l'appunto anche lui, ora sta parlando. E le nuove rivelazioni sarebbero sulla strage di Via D'Amelio, la strage di Paolo Borsellino e la sua scorta. Le rivelazioni sarebbero di uno Spatuzza che dice: c'era uno 007 nel giorno in cui preparammo la bomba, l'ho visto di sfuggita e ora pare, perché all'inizio si era detto l'ha riconosciuto totalmente, invece dalla procura di Caltanissetta dicono: non esiste alcuna certezza. Spatuzza si è limitato a dire in un confronto all'americana di avere forse identificato, di avere visto una somiglianza nella persona che c'era in un funzionario dei servizi segreti attualmente ancora in funzione, vale a dire Lorenzo Narracci, che all'epoca era effettivamente a Palermo. La tesi difensiva di Narracci è un totale diniego, fa sapere Felice Cavallaro a pagina 2 del Corriere della Sera. Lui era l'uomo ombra di Contrada, frequentato anche fuori ufficio, non a caso, racconta Cavallaro, all'ora della strage attuata per eliminare Paolo Borsellino, Narracci era in barca col suo capo Contrada, un dettaglio spesso richiamato per escludere l'ipotesi e l'insinuazione sulla presenza di Contrada sulla scena del crimine. Certo, come un'altra vicenda, la bufera su Mori. Il generale dei carabinieri Mario Mori, ex comandante dei Rosco, lui che ha arrestato Dottor Ina, ora si trova indagato per concorso in associazione mafiosa a Palermo. Oltre allo 007 Narracci, che a Caltanissetta viene riconosciuto forse dal dichiarante Spatuzza. Insomma, veleni e controveleni, tanto che Francesco Lalicata sulla Stampa fa un editoriale, un pezzo a pagina 7 su Mori, quel servitore dello Stato vittima del suo metodo investigativo. È un po' la vicenda di molti uomini dello Stato colpiti in questa strana nemesi di poi finire in qualche modo sul banco degli imputati. Due segnalazioni conclusive. La prima è questa: una costituzione per cani e gatti. La Stampa ci fa un'intera pagina, ma c'è un po' su tutti i giornali. È stata approvata ieri alla Camera una legge per cui chi maltratta o peggio uccide gli animali da compagnia, quindi cani, gatti, non solo, finirà in galera. Con la nuova legge chi li maltratta uccide finirà in cella, un giro di vite anche contro il traffico illecito, e con la voce di Savino Pezzotta dell'UDC, che si è astenuto, ha detto: per carità, voglio bene a cani e gatti, ma trovo assurdo che il Parlamento abbia discusso una mattinata su questa legge con tutti i problemi che ci sono. La seconda segnalazione è solo il titolo della Gazzetta, parla la Gazzetta dello Sport: corrotti, esclusivo. La Gazzetta intervista il super testimone cipriota, ex tesoriere della Federcalcio di Cipro, che dice: così vi hanno truffato, gli europei che sono stati assegnati alla Polonia sono stati pagati con milioni di euro i funzionari dell'UEFA che dovevano decidere, e siete stati truffati voi dell'Italia che eravate candidati. Corrotti, la Gazzetta dello Sport. Votate il sondaggio e noi andiamo al GR.